Pirata dei Caraibi, stai ascoltando anche qua? FB, sono qua. Su canale 10, c'è nessuno? Claudio, Claudio! Chi è, chi è, chi è? Sono io, Vincenzo. Gio Maria, tu sei? No, sono già, chi è? Doppio R. Figlia! Come ci sto arrivando? No, vabbè. 1, 2, 3, 4. Sì, 9, 10, radio 5. Ho capito, tu hai, sì, 9, 10, la radio è un po' bassa, devi cantare. La radio è bassa. Un po', alta appena appena. Provalo, sì, guarda, 2, 3, 2, 3. Basta, così è perfetto. Che ragazzo. Sto uscendo con un SSB50, un Pelsat SSB50 del 1975. La radio è normale, non è in realtà, non è normale, però è chiara come radio. Ok, aspetta che attacco un altro baldracchino, vedete se va meglio. Sì, perché c'ho dei falsi contatti. Sto uscendo? Sì, adesso scendo. Questo è il Royce 23 canali, AM7B, non c'ha le pelle ovviamente, c'ha l'orologio, il mobile leg nuovo. Cos'hai detto? Il Tokai 5034, quello lo dicevo affanato, non lo so, lo lascio così. Picca. Se non ce l'ho capito, se ti fai, non lo puoi dire me. Vabbè, l'ho usato, non la chiudo a te, io non chiedo, però io li ho trovato. Ehi, io mi sa che c'è un microfono del Toccaio. Ho un microfono del Toccaio. Quello se me lo fai avere, pagando, te lo prendo, se ti devo dare lo stesso. E se lo trovo già, lo faccio a me. Com'è la modulazione? È chiara, però sempre normale, una modulazione normale. Ma adesso sono preoccupato perché questo microfono mi conduce una bomba che c'è troppo, tu mi senti basso. Come mai? Vai, stavo scherzando già, basta, ti chiama a te. Sto messo apposta perché arrivi che io sono al tuono. Questo qua è il cala lasciato con me. Adesso usciva a forza, ma la so. Se tu becco ce l'ho anch'io, se vuoi lo sapevo. E se non per tutta la vita io ti sento becco. Te lo ricordi quello che ti ho visto sera? No, mai toccata. L'ho data a Marco Sgurbio. Non so se non l'ha pagato. vabbè. E comunque, se lo vuoi beccare a casa. Accesi, questo è il Saturneco. Bisogna rifare gli altri. Ecco, come sto uscendo? Con che microfono stai uscendo? Il Tarno è più 3. Bisogna radio. È allucinante la radio, non so se sia più forte della mia, però è un bel po'. Sì, salutare. Ciao Gianni, che ti stai sentendo? Sono a un po' di stanza e sto facendo una manutenzione a un computer. Ciao caro. Ciao carissimo. Ciao già! Ciao, fatti sentire un'estate, Salvatore, che ci fa piacere. Ma lui è un po' così. Comunque, sei 9 più 5 in questo limite. Sì, più o meno così, così là. Ma dove sei a piazza? No, giù a San Giovanni. Ah. Qualche anche me in più c'è. Però uno me l'ha investito e l'altro me l'hanno schiacciato, due macchine. Adesso ne ho comprato uno da nuovo, passare tedesco, e poi un mattato che l'ho preso nella zona di KB, dove abita Marco, perché lì ci sono stati i cani bastardi in giro. Vabbè, tante volte sono più intelligenti quelli. Sembra Spalletti dell'Inter quando ride, non sembrano Sciarpe con tutte le righe della fronte. E vabbè, comunque anche io tiro il cagnolino, poi c'è un allevamento delle capi, del cambio perugiano. No, non ho altro tempo io. Comunque già va bene così, aspetta, devo abbassare qua. Metto l'eco, se è l'eca, guarda un po', così con l'eco funziona, anche se non mi piace a me l'eco. No, non mi piace l'eco del microfono, è bello, ma quello del... guarda io, sento il momento che lo faccio sentire, questo qui è quello del microfono. Adesso questo qua è quello del Galaxy, come mi ascolti lì. Tu sei sul canale 9? Cosa? C'è gente sul canale 9. Sì, c'è stato lì. Ti ho detto la differenza però da te. Questo qui è quello del Saturnet. Memorizza. Aspetta che vado sul 9 là. Ora è Maurizio. Perché sono di quei cibi dell'ultimo giorno. Si sta perdendo, gli devo dare un consiglio, un attimo, dimmi. Ho detto che non usavo così i baracchi, non parlavo, non è come sono utilizzato, non hanno niente. Noi che siamo qui, che sappiamo che 9, lo usiamo per le tangenti, sarà l'inguro della tecnologia spaccata di come è possibile. Sì, il canale 9 è sempre stato il canale emergente, noi si mettono a fare il canale emergente, con tutti i canali che ci sono, poi la maleducazione è ormai in corso. E quindi va, stai ordinando altro che radio oggi? Ne avrò altro quando sei venuto, però adesso sono un po' fermo. Lo sto provando una a una, adesso ogni tanto le metto una e basta. Aspetta che Salvatore non riesce ad andare avanti, gli devo dare delle password. Comunque va, non c'è il carattere per uno. Il Galaxy, va bene, non meglio no, il Royce è molto più bello, il Galaxy è quello che ha più frequenze, è più moderno ed è più attuale, però diciamo che poi sembra che si adatta un po' a tutto il Galaxy. I sistemi, insomma, è un baracchino completo, gli altri degli anni 70-80 non hanno l'FM, fanno meno canali, però hanno un fascino diverso. E come modulazione sono bene, questo è sicuramente eccezionale sotto molti aspetti. Ma soltanto per la modulazione, adesso la modulazione, che è molto molto molto, vabbè, poi si è applicata anche il microfono, però la base è chiara, ragazzi. È una chiave per la radio, il Galaxy, c'è poco da fare, come Gianni? Doppio room, ci sei? Gianni? Ora, ho perso, sta più scendo. Ora, prova. A pigliarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cazzo Gianni, quando sei non ci sei mai, poi Salvatore entra, fatti sentire, ci manca il suo sorriso, mi manca... Attenzione Salvatore di nuovo. Ehi, dimmi Salvatore, come sto arrivando? Perfetto, guarda così, sto da bene. Devo aspettare che entri il mio controllo, ma non vi vergognate. Claudio Sparviero. Chi c'è al canale 10? Chi c'è? Sa, prova minchiofono. Minca, pure un raio mi fa lendi. C'è qualcuno al 10? Oh, io. Scusando chi l'ha fatto questo telefono, chi l'ha inventato pure. Claudio, ci sei? Ma già ne ho antenna, sì.